oggi sia necessario un partito, un movimento, un rassemblement che occupi il centro della scena e che raccolga cattolici e non cattolici in nome di un senso dello Stato e di una capacità di immaginare le istituzioni nella società di oggi così frammentata. Voglio dire, non è indispensabile essere cattolici per esempio schierarsi a favore del buono scuola. Ci sono elementi della dottrina dell'economia sociale di mercato che possono essere declinati in chiave liberale ed essere estremamente utili nei frangenti che viviamo. Io penso che i partiti di oggi hanno perso gran parte della loro identità e sono confusamente alla ricerca di una nuova, avrebbero bisogno di attingere a questi esempi per riuscire a ritrovare il senso dei propri valori. Penso che un partito di cattolici e di non cattolici che sappia occupare il centro della scena politica con una saldezza, con una forza elettorale naturalmente che il partito di Casini non ha ancora o magari non avrà mai, ma insomma il problema non è il partito di Casini, il problema è saper individuare uno spazio e saper costruire intorno a questo spazio un sistema di valori, un'identità. In questo senso i cattolici possono dare un grande contributo, ma accanto a loro possono darlo dei laici che non siano credenti. L'importante è avere un'idea della società che si vuole costruire. I cattolici o i non cattolici liberali possono insieme dare un contributo o colmare questo vuoto che c'è oggi nel sistema politico, quale che sia la legge elettorale che si vuole immaginare. Il nostro problema è ricostruire un partito che sia, diciamo, di sistema.